sotto gli occhi senza essere guardata. Il freddo, era il freddo di 8 anni che non ci lasciava scampo, ed era come essere fuori posto in ogni posto. Tutti scappano, tutti scappano da me. Passava, entrava dentro le nostre palpebre, inesorabile, leggera, così dolce da divenire il tempo dei miei battiti, il respiro delle promesse. Passava e non restava nulla, ed era tutto in me. Ho trovato 1000 problemi, ma non le soluzioni. Pensa se un giorno molto lontano, qualcuno dovesse leggere questo e pensare: questa allora, questa, un tempo era la poesia. No, invece no. Erano soltanto i miseri deliri di un animo vagabondo. Dolcemente fissava le mie pagine devote, distratte, distanti dalla sua loquacità così verbosa. Stavo in silenzio.